Gli speciali di Radio 24. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, buongiorno da tutta Radio 24, benvenuti a commentare le notizie che non avremmo sicuramente mai voluto commentare, a raccontare i giornali e a raccontare anche le immagini che non avremmo neanche pensato di più di immaginare, perché la forza devastante del terrorismo è quella di irrompere nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre vite normali, che poi, se ci pensiamo bene, è il bene più superiore che abbiamo, e a scuoterci, a farci pensare, a farci tornare alla memoria ancora quello che abbiamo vissuto negli anni passati. La memoria torna all'11 settembre del 2001, torna ad altri attentati che hanno colpito il cuore dell'Europa, colpita questa volta, lo sapete, Parigi, colpita l'Europa, colpito il mondo intero, lo ha detto anche il presidente americano Barack Obama. C'è stata una, ovviamente, una reazione immediata in tutto il mondo. Cercheremo di raccontarvi quello che è successo, che ancora non è chiaro. C'è una rivendicazione dell'ISIS da prendere con le molle. La situazione a Parigi sembrerebbe a questo punto tornata sotto controllo, ma c'è la macabra, purtroppo il macabro conto delle vittime, perché non è ancora chiaro, 100, 120 morti, ci sono oltre 200 feriti, ci sono un centinaio di feriti in condizioni molto gravi. Una situazione, capite, veramente devastante per quella città, per chi l'ha vissuta, ma per tutti noi, ripeto. E poi cercheremo di capire anche veramente l'aspetto della rivendicazione, l'aspetto dello scenario, quello che potrà accadere, se, come è già stato annunciato, ci sarà una reazione forte, una reazione sul piano militare. Molti la auspicano, molti la vorrebbero. Non so che senso può avere ricordare, però lo voglio fare sommessamente, che il terrorismo non è un esercito, non è uno Stato, non ha confini. Fare delle guerre, portare di nuovo l'Europa, l'Occidente in qualche guerra, come è successo in passato, sulla base delle stesse motivazioni, reazioni ad attentati terroristici, potrebbe essere nuovamente un errore, ripetere un errore così come è stato fatto in passato, e ripetere le stesse cose che poi ci hanno portato fino a qua. Perché, lo ripeto, il terrorismo non è, è un nemico difficile da combattere. Ma insomma, queste sono riflessioni che faremo adesso. Cerchiamo di stare sulla cronaca di quello che è accaduto. 6 attacchi forse nel cuore di Parigi, la capitale della Francia, ieri sera. Anche qua non è ancora chiaro, diverse sparatorie, delle esplosioni provocate da più di un kamikaze in alcuni luoghi chiave della città. Allora andiamo a vedere sui giornali, per esempio, e anche in studio con noi c'è Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'avete già sentita nel giornale radio, naturalmente. I luoghi, allora, sembra che tutto sia iniziato nel 10° arrondissement, all'esterno e poi anche all'interno di un ristorante, in una zona dove ci sono dei ristoranti kosher. Una sparatoria all'angolo tra Boulevard Voltaire e Rue de Charonne, poco dopo la presa d'ostaggi al teatro Bataclan nei pressi di Rue Boulevard Voltaire. Poi una sparatoria è stata segnalata al centro commerciale, alle Halles, pochi centinaia di metri, forse pochi chilometri più in là, e nello stesso tempo le esplosioni all'esterno dello Stade de France. Le immagini le avete viste tutti, sconvolgenti, perché un'intera folla che rimane sotto shock e poi viene fatta defluire, e per fortuna a quel punto non è successo nient'altro di grave. Il presidente francese Hollande, che si trovava a vedere la partita, è stato fatto evacuare subito, naturalmente. La rivendicazione, abbiamo detto, c'è stata una rivendicazione dell'ISIS da prendere con le molle. Questo è l'11 settembre della Francia, lo ha riferito Laura, vienimi in soccorso, credo che sia è un, una rivista francese di sostenitori dell'ISIS, a quanto riesco a capire, ma appunto, come dicevi, si tratta di rivendicazioni che vanno sempre prese con le molle, come anche quella in cui su Twitter si celebrano gli attacchi di Parigi e si dice ora tocca a Roma, Londra e Washington. Già. C'è anche questa, no? Con l'hashtag Parigi in fiamme. Al momento appunto queste sono le due rivendicazioni. Ci sono poi le minacce alla Spagna, al Portogallo, che fu territorio dell'antico califfato in Europa, ma sono un po' i bersagli classici di queste rivendicazioni, no? Come Roma compare sempre. Quindi dal punto di vista della rivendicazione, ho visto stamattina Le Figaro, tra i fatti certi metteva tutto quello che tu hai ricordato, quindi gli attacchi che sono stati fatti ai locali pubblici, allo Stadio di Francia, all'Auditorium Bataclan. Non riportava, ad esempio, tra le notizie accertate quella della rivendicazione, come d'altra parte non è assolutamente accertato quanti fossero questi attentatori. Sappiamo che sono 8 almeno, 7 di questi si sono fatti esplodere, 4 all'Auditorium Bataclan, 3 sono quelli che si sono fatti esplodere nei pressi dello stadio, provocando appunto alcune vittime, ma non sappiamo quanti esattamente, insomma, i rapporti sono tra i kamikaze e le persone che sono state uccise dall'esplosione dei giubbotti che portavano addosso, ma non sappiamo nemmeno quanti esattamente siano i latitanti e se ce ne siano. Presumibilmente sì, perché se alcuni hanno portato questi attentati all'auditorium e sappiamo quanti sono, alcuni hanno portato l'attentato nei pressi dello Stato di Francia e sappiamo più o meno quanti sono, non sappiamo niente di quello che è accaduto vicino ai locali che tu citavi prima. Per sciogliere subito il nodo, sì, tra i 6 e i 7 attacchi che hai citato anche tu, è perché 2 di questi locali che sono stati colpiti si trovano nella stessa via, quindi se contiamo le vie sono 6 attacchi, se contiamo i locali sono 7. Allora, tra poco, tra l'altro, andremo anche a Parigi, dove ci sono molti italiani che possono parlare con noi, li sentiremo tra poco e quindi cercheremo di capire anche di più veramente quello che è successo, l'entità degli attacchi, una serie di attacchi coordinati in una maniera veramente incredibile. E forse bisognerà parlare anche di come la Francia è stata colta, anche se può sembrare cinico, può sembrare in questo momento persino crudele, di come la Francia sia stata colta tutto sommato impreparata anche dal punto di vista della capacità di prevenire questo genere di attentati. Parlo di intelligence, parlo di servizi segreti e di tutto quello che naturalmente sappiamo. Voglio leggere qualche titolo dei giornali per capire anche come si comincia a ragionare attorno a quello che è successo, anche se naturalmente a caldissimo, e le parole che si utilizzano per definire quello che è successo ieri notte a Parigi. La guerra a Parigi, titola il Corriere, ha, come si diceva una volta, 9 colonne, 13 novembre 2015. Questa è sicuramente un'altra data che, ahimè, dovremo e impareremo e ci resterà impressa nella memoria, impareremo a ricordarla, così come ormai resta indelebile nelle nostre menti e anche nei nostri cuori l'11 settembre 2001 o il marzo del 2004, la strage alla stazione di Atocha a Madrid. E allora, Corriere, dicevamo, 13 novembre 2015, la guerra a Parigi, notte di attacchi continui, decine di morti, centinaia di ostaggi ed esecuzioni, terrore allo stadio, a teatro, nelle strade, città nel panico, chiuse le frontiere. Questo è quello che scrive il Corriere. Sul discorso delle frontiere si può forse chiarire, alla luce di quello che poi è stato spiegato successivamente, non sono in realtà chiuse le frontiere della Francia, ma il presidente Hollande ha annunciato controlli strettissimi per quanto riguarda appunto i passaggi alle frontiere del paese. La stampa scrive il massacro di Parigi, attacchi in simultanea, oltre 100 morti solo in un teatro, e parliamo del teatro Bataclan. Il teatro Bataclan, allora andiamo a vedere, un luogo adesso dire un luogo simbolo forse è troppo, perché di cosa parliamo? Parliamo di una sala spettacolo nell'undicesimo arrondissement della capitale, che può contenere fino a 1500 persone, un luogo simbolo di che cosa? Del divertimento, dello svago. È un teatro dove si fanno spettacoli comici, dove si fanno concerti. Ieri sera il concerto in programma era un concerto della band, rock band americana Eagle of Death, appuntamento che aveva fatto registrare il tutto esaurito e la sala era pienissima. Il terrorismo ancora una volta colpisce non centri nevralgici del nostro sistema, dei nostri stati, della politica, dei luoghi dove si prendono le decisioni o dove si cura la sicurezza di uno stato, come possono essere delle caserme o un aeroporto, anche se insomma in nessun caso è giustificabile il terrorismo. Qua a colpire, a essere colpiti sono stati proprio i luoghi della vita normale, le brasserie, lo stadio e un teatro, il teatro Bataclan. Tra l'altro, Laura, anche su questo possiamo fare un piccolo aggiornamento di cronaca, perché l'ANSA questa mattina alle 6.35 batteva un'agenzia dicendo blitz all'interno del teatro, lasciando pensare che fino a quel punto ci fossero ancora degli ostaggi, sì, dentro. Esatto, dobbiamo controllare un po' gli orari delle agenzie e degli orari di battitura, perché precisamente adesso io non vediamo se riesco a trovarla mentre parliamo. Comunque la sensazione è che l'orario possa non essere giusto, l'orario si riferisce prima, nella notte, quasi sì. Certamente è successo nella notte, non saprei dirvi esattamente quando, ma poi lo controlliamo. Il blitz c'è stato, nel momento del blitz si sono fatti esplodere alcuni di quelli che erano dentro, tre dentro e uno fuori, quindi durante la fuga probabilmente, da quello che siamo riusciti a ricostruire. Come ricordavi tu, c'è l'obiettivo dei luoghi di divertimento, di svago della gente comune, quindi bar, ristoranti, una terrazza all'aperto, un teatro e così via. A proposito di teatri, forse hai nominato anche il teatro della Dubrovka di Mosca, dove ci fu un altro sanguinario attentato con presa di ostaggi. Lì si concluse in maniera ancor più drammatica, perché morirono quasi tutti gli spettatori, perché nel blitz delle teste di cuoio fu alla fine utilizzato un gas rimasto poi misterioso che uccise tanto i kamikaze quanto coloro che erano stati presi in ostaggio per la maggior parte. Sarebbe giusto ricordare anche i numerosi attentati e attacchi che avvengono purtroppo quotidianamente, forse in molti luoghi del Medio Oriente o dell'Oriente o del Nord Africa, da dove provengono molti di questi terroristi, foreign fighters, o comunque nelle zone dove ci sono i luoghi di guerra, perché dobbiamo ricordarlo, questo terrorismo, lo Stato Islamico, l'ISIS, che ha rivendicato questo attentato, quotidianamente compie attacchi anche in Siria, in Iraq, o è successo pochi giorni fa in Libano, moltissime vittime. Una cinquantina quasi di vittime. Una cinquantina di vittime. E facciamo così, facciamo una pausa allora per le informazioni sul traffico, poi rientriamo, continuiamo a cercare di capire quello che sta succedendo, le agenzie che escono, le notizie di cronaca, la ricostruzione di quello che è accaduto. Andremo a Parigi e cercheremo di gettare lo sguardo anche sugli scenari che a questo punto si possono aprire, le dichiarazioni del presidente americano Obama, durissime quelle di andremo a prenderli uno a uno, quelle del presidente francese Hollande, che soprattutto ieri sera era visibilmente sotto shock per quanto accaduto. Torniamo tra un attimo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta gli speciali di Radio 24. Queste voci che avete appena sentito sono le voci delle persone che stavano uscendo dallo Stade de France sotto shock per quello che era accaduto, avendo sentito delle esplosioni, avendo saputo in tempo reale quello che stava accadendo, ma non avendo ancora probabilmente capito fino in fondo quello che stava succedendo. La reazione però è stata questa, una reazione tipicamente, possiamo dirlo, francese, molto orgogliosa e anche molto energica, reattiva. L'inno di Francia. Stavo leggendo alcuni titoli di giornale, insomma, leggiamo anche un commento per cominciare a definire con delle parole quello che è successo e quello che probabilmente succederà, perché sarà banale dirlo, ma è sicuramente vero che da oggi non, niente sarà più come prima, sicuramente in Europa, sicuramente in Francia, sicuramente a Parigi, ma credo nel mondo intero. Domenico Quirico sulla Stampa: una operazione militare nel cuore dell'Europa, pianificata, eseguita con sincronia, efficacia, implacabile, connessione di ogni addendo, la risposta dell'islamismo totalitario e militarizzato alla guerra asimmetrica di un occidente cauto e renitente, droni, bombardamenti, ascari locali coraggiosi ma inefficienti, si è dispiegato con beffarda e feroce rovesciamento, portare la guerra tradizionale sul terreno del nemico. Non più i cani sciolti del fanatismo, assassini in cerca di visibilità e martirio, il terrorismo fai da te che pure ci sembrava pericoloso perché anonimo, opaco, imprevedibile. Questa volta squadre di forze speciali che ricalcano i metodi e l'efficacia delle truppe su cui si posa la incerta fiducia di noi infedeli e la consueta scelta simbolica, il teatro, lo stadio, i luoghi della nostra inesistente normalità. Ed è un po' il concetto che stavamo ricordando anche noi, perché i luoghi colpiti da questo attentato sono proprio i luoghi della normalità, dello svago, della vita quotidiana, non luoghi sicuramente legati al potere, a un sistema che pure questo terrorismo in maniera fanatica e cieca crede di voler combattere. Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno a voi. Alberto, allora, c'è stata una rivendicazione, abbiamo detto che qualche sito, qualche giornale neanche l'ha citata, una rivendicazione apparsa dove intanto, e che significato possiamo dare a queste parole secondo te da parte dell'ISIS? Ma guardate, l'unica cosa che io posso dire è questa: in questo momento, e sentendo anche la rassegna stampa che tu stavi leggendo, meno parole, meno retorica e più fatti. Questo è essenziale in momenti come questi, perché questi sono momenti gravi. Sono momenti gravi perché siamo un nuovo capitolo di una storia che è cominciata più di 30 anni fa, è passata attraverso tutte le guerre del Medio Oriente, ne voglio ricordare alcune. La guerra Iran-Iraq nel 1980, 8 anni, 1 milione di morti, poi la invasione del Kuwait nel 91, poi la guerra in Afghanistan, cominciata nel 79 e durata ancora fino ai giorni nostri e continua, l'invasione americana dell'Iraq nel 2003 e la guerra di Siria e Iraq cominciata 4 anni fa. Insomma, siamo di fronte a guerre che sono entrate dentro casa nostra. L'ondata dei profughi, come scrivevamo spesso nei giorni scorsi, era uno dei segnali che la guerra del Levante, del Medio Oriente, era entrata nelle nostre case. C'era già stato l'allarme gravissimo, quello del 7 gennaio di Charlie Hebdo, si era pensato, si era detto i cani sciolti, ma si era anche capito che appartenevano a una filiera jihadista. Vi dico qualche numero, è un rapporto parlamentare francese di quest'anno: i jihadisti francesi che combattono in Siria e in Iraq sono oltre 1500. E questa è la risacca di questa guerra che è entrata dalla pancia del Medio Oriente nelle nostre case. Quindi è un momento in cui, secondo me, si devono misurare le parole, valutare bene anche quelle che vengono dette in giro e capire che forse la guerra al califfato bisogna farla sul serio. Alberto Negri, insomma, esperto di Medio Oriente, esperto di terrorismo internazionale, nostro collega che da molti anni segue queste vicende, resta con noi se vuoi, ci risentiamo dopo il giornale radio che adesso ci aggiornerà ulteriormente sulle notizie, sulla cronaca che arriva da Parigi. Vogliamo però con te, Alberto, cercare di capire se per esempio può esserci stato un collegamento con le operazioni avvenute proprio ieri in Siria. Obama aveva parlato di un abbiamo bloccato l'avanzata dell'ISIS e poi la possibile uccisione di uno di questi leader dell'ISIS, Jihadi John, e quali potrà essere adesso la reazione a catena che si innesterà. Ci risentiamo dopo il giornale radio con me, Alessio Maurizi, con Laura Bettini, con Alberto Negri, con alcuni giornalisti che stanno a Parigi, con quindi cronaca, ricostruzione e cercare di capire quali sono gli scenari che ci aspettano. Ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Gli speciali di Radio 24. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati a questo speciale di Radio 24. Buongiorno da Alessio Maurizio, in studio con me c'è anche Laura Bettini. Ciao Laura, ben ritrovata. E con noi ci sono anche Claudia Schiattone, Riccardo Poli in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi faremo compagnia con gli aggiornamenti da Parigi e con un po' di approfondimenti tornando su quello che è accaduto ieri a Parigi. 6, forse 7 attacchi nel cuore della capitale francese, 126 le vittime secondo il bilancio, l'ultimo ufficiale fornito dalle autorità francesi, ma ci sono diverse decine di feriti molto gravi, sono oltre 200 complessivamente i feriti. È ancora sostanzialmente tutto da ricostruire esattamente quello che è accaduto e chi siano stati i terroristi ad entrare in azione. Ricordiamolo, al momento, a parte i kamikaze che sono entrati in azione, che quindi dovrebbero essere loro stesse vittime del loro stesso fuoco, per gli altri si tratta tutti di latitanti terroristi che adesso le autorità francesi stanno ricercando. I nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale, il numero di sms 349-238-6666. Tra poco proveremo anche a dialogare con voi all'800-24-0024 come facciamo normalmente ogni mattina, ogni sabato e domenica mattina a quest'ora. Con Si può fare, potete usare anche la pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi, se volete. In compagnia con noi ritroviamo anche Alberto Negri. Ciao Alberto, buongiorno di nuovo. Buongiorno a tutti voi. Allora Alberto, lo conoscete, è una voce di Radio 24, un giornalista importante, credetemi, una delle poche persone, io credo, che in momenti come questi, ma anche in altri, riesce ad avere la lucidità e anche le conoscenze dopo anni e anni di frequentazioni di Medio Oriente, un giornalista inviato dove i missili volavano per davvero, esperto di terrorismo, di Islam, di intelligence. Alberto, ci siamo lasciati dicendo quali sono stati gli errori fatti nel passato e adesso, diciamo anche dall'Occidente, cercare di non ripeterli. Voglio chiederti qual è la priorità secondo te adesso per la Francia, per la coalizione internazionale, per Obama, per quanto riguarda, diciamo, un intervento che sicuramente sarà all'ordine del giorno, lo è già, perché dei raid sono già in azione. Però prima ancora ti voglio chiedere, è possibile secondo te che ci sia una concatenazione di eventi legata alle operazioni di ieri? Cioè Obama ha parlato, abbiamo bloccato l'avanzata dell'ISIS perché c'è stata un'importante azione sul terreno ieri nella zona tra la Siria e l'Iraq, poi si parlava dell'uccisione, c'è stato un giallo, ma sembra alla fine che sia stato effettivamente ucciso Jihadi John, uno di questi leader jihadisti. Possibile un'accelerazione del terrorismo dopo questa diciamo reazioni militari della coalizione, che quindi starebbe facendo passi in avanti, come ha detto Obama, nella lotta contro l'ISIS? Oppure secondo te è una pura coincidenza, Alberto? Quando si parla di Medio Oriente ci sono delle coincidenze che ci possono apparire casuali, ma forse non lo sono. Decitiamo. Una l'hai menzionata appena adesso tu, l'offensiva in Iraq che sta tagliando la strada tra Mosul e Raqqa, la capitale del califfato. Quindi questa è una coincidenza. Ne diamo un'altra. Oggi e domani era prevista la visita di Rouhani a Roma e a Parigi. Come sapete, il presidente iraniano è presidente di un paese che è uno dei nemici giurati dei jihadisti sunniti, insieme alla Russia che affianca Bashar Assad in Siria. Vogliamo parlare di un'altra coincidenza? Oggi a Vienna è prevista la riunione sulla Siria, dove per la prima volta partecipa anche l'Iran. E poi ce n'è un'altra ancora, perché domenica c'è il G20 ad Antalya, dove ci saranno gli incontri, certo, tra Obama, Putin, Erdogan. È chiaro che siamo sempre in un momento in cui le coincidenze sono sempre esplosive, perché quando c'è una guerra, i fronti delle guerre sono vari e sono diversi, sono esterni, sono interni, sono quelli del campo di battaglia che noi vediamo, ma sono anche quelli della diplomazia internazionale. E ora che cosa accade? Accade che l'Europa e l'Occidente sono di fronte a un bivio importante, perché probabilmente questa guerra al califfato deve farsi davvero, e soprattutto devono cominciare a essere identificati amici e nemici, gli alleati veri e quelli che invece finora hanno sostenuto molto ambiguamente questo conflitto. E poi c'è il problema francese. Ricordiamoci di Charlie Hebdo, ricordiamoci dell'episodio del TGV. Insomma, siamo di fronte a un paese che, come dicevo prima, ha avuto 1500 jihadisti. Un'ultima annotazione. Sì. Un'ultima annotazione. Maurizio, qui parliamo di attentati e naturalmente noi siamo tutti sconvolti di fronte a quello che è accaduto l'altro giorno a Parigi, ma ricordiamo anche quelli nel mondo musulmano. Sì, l'abbiamo ricordato perché quotidianamente nelle capitali non solo del mondo arabo, in Afghanistan, in Iraq, in Siria, in Libano. Vi do una fotografia di quello che accade sul campo. Insomma, io una settimana fa ero nel Kurdistan turco a Diyarbakir. Bene, a Diyarbakir, nel centro della città, c'erano due casematte dell'ISIS, due casematte, non una, due. Cioè nel centro della città, per alcuni anni ci sono state due basi dell'ISIS, che soltanto adesso le truppe turche si sono decise a combattere. Ebbene, in quella di Diyarbakir, di guerre se ne combattono almeno tre. Si combatte la guerra contro il califfato, ma finora la Turchia di Erdogan l'ha fatta in maniera assai labile e ambigua, anzi questo califfato ha sostenuto facendo passare migliaia di jihadisti per andare a combattere il regime di Bashar Assad. Ma la stessa Diyarbakir è stata bombardata nel centro della città dalle forze turche che si stanno confrontando con i curdi del PKK, ma anche con la popolazione civile curda, e usano i jihadisti contro questa popolazione civile. Insomma, signori, se uno va sul campo si accorge purtroppo che quello che sta accadendo lì ci riguarda direttamente, sì, come l'abbiamo detto per tanti questi anni. Sì, secondo te in questo momento l'intelligence americana, francese o comunque dei paesi occidentali che sono più in prima linea, la Russia, anche la Russia, ricordiamolo, è importante, le tensioni che ci sono state tra Obama e Putin, che credo dovranno essere lasciate alle spalle, sono in grado in questo momento di individuare quali sono gli obiettivi esattamente da colpire per evitare di trascinare comunque diversi paesi in guerre più ad ampio spettro, che possono non colpire l'obiettivo del terrorismo, perché ricordiamo che il terrorismo, anche se abbiamo di fronte uno Stato islamico, non ha confini, ha confini labili, non ha un esercito, non ha un volto chiaro. Allora, il terrorismo si combatte non soltanto ovviamente con le guerre che si fanno sul campo di battaglia, ma con uno spettro di strumenti che sono quelli dell'intelligence, della sicurezza, ma si combattono soprattutto con degli alleati leali, e questi alleati leali devono essere per noi quegli stati del Medio Oriente che, diciamocela tutta, signori, questo terrorismo in questi decenni hanno alimentato anche con la nostra complicità, anche perché ci veniva utile in qualche modo in alcuni periodi e fasi della storia. E quindi la collaborazione non può essere soltanto interoccidentale, ma deve essere allargata proprio a tutti gli stati del Medio Oriente coinvolti, che una buona volta devono cominciare a combattere davvero questo terrorismo, che in qualche modo serve anche a loro, signori. Guardate queste monarchie del Golfo, insomma, lo sanno tutti, che hanno alimentato per anni tutti i movimenti islamici radicali per tenerli lontano da casa loro. E adesso questo rapporto ambiguo, questo Occidente lo deve cominciare a sciogliere, lo abbiamo detto e scritto tante volte. Quando si dice che la nostra vita sta per cambiare, non può cambiare soltanto per motivi di sicurezza, perché ci saranno più misure di sicurezza più pervasive nella nostra vita, deve cambiare a livello di concezione politica, diplomatica, a livello anche proprio di capacità filosofica di capire che cos'è il bene e il male. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grazie, buona giornata, per essere stato con noi. Questa è tutta materia che ricade sicuramente su quella che sarà la campagna per le prossime elezioni presidenziali americane. gli Stati Uniti nel bene o nel male restano sicuramente la guida di qualunque azione, di qualunque coalizione internazionale, ma insomma Alberto Negri ci faceva capire come sia importante individuare anche gli alleati giusti proprio nelle aree interessate, in Medio Oriente, in Oriente, in Siria, in Iraq, in Iran e altrove. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo tra pochissimo ancora con gli aggiornamenti di cronaca, andremo anche a Parigi, tra poco. Gli speciali di Radio 24. Di nuovo benvenuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, Laura Bettini in studio con me, ci sono aggiornamenti di cronaca da Parigi o anche da altri fronti che possano, diciamo, aiutarci a capire, a fare il quadro, perché ancora bisogna fare il quadro esatto di quello che è accaduto ieri sera a Parigi. A Parigi, sui quotidiani francesi, ovviamente questo è il momento in cui si fanno un po' i riepiloghi, come si dice, no? Quindi c'è si raccolgono tutte le notizie e Le Figaro, vi leggo questo perché più o meno sostanzialmente questa è la linea, ci ricorda che sono 126 al momento le vittime accertate, 82 all'auditorium Bataclan, 4 allo stadio di Francia, 18 morti in Rue de Charonne, almeno 12 morti in Rue Alibert. Questi sono tutti i locali che sono stati presi di mira, 5 persone a un centinaio di metri da Bataclan in Rue de la Fontaine, alla terrazza di una pizzeria che si chiama Casa Nostra, Boulevard Voltaire, altre vittime, un morto in particolare, molti feriti. E gli attentatori, sappiamo, 8 quelli che sono stati sicuramente uccisi, 7 kamikaze tra di loro. Per quel che riguarda l'Italia invece vediamo che arrivano delle reazioni politiche, tra poco sentiamo sì. Anche i tuoi ospiti. Leggo solo quella di Salvini che è arrivata in mattinata, non c'è bisogno di avere paura, diceva sostanzialmente Salvini, eccolo qua, non dobbiamo avere paura, l'Europa continuerà a perdere solo se farà finta di niente, insomma incita all'attacco. E allora buongiorno a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, benvenuto. Buongiorno. Emiliano, che avevamo convocato questa mattina a dire la verità per parlare di tutt'altri argomenti, di politica italiana, del reddito di cittadinanza che lei ha introdotto in Puglia, insomma di argomenti che avremmo preferito sicuramente affrontare anche con lei, invece ci troviamo qua a parlare d'altro. Lei però è un uomo politico esperto, guida una regione italiana. Adesso alle 9:30 il ministro dell'interno farà il punto, sappiamo che è stato aumentato il livello di sicurezza. Cosa accadrà secondo lei, Emiliano? Cos'è il momento di fare? Si sente parlare della necessità di chiudere le frontiere, il presidente Hollande ha detto questo, poi in realtà è stato corretto, cioè un maggiore controllo alle frontiere della Francia. Obama ha detto, insomma, li andremo a prendere uno a uno. È arrivato il momento anche secondo lei di intervenire in maniera più determinata, militare anche, contro l'ISIS? E come però, Emiliano? Giornata in cui bisognerà contenere il panico, perché è evidente che lo scopo dell'attentato era quello di determinare in ogni capitale occidentale la paura di organizzare eventi, di fare incontri. A Parigi tra breve ci sarà la conferenza sul clima, ci sono una serie di eventi che fanno parte della nostra quotidianità che evidentemente si vogliono interrompere, si vuole rompere uno stile di vita e quindi bisogna reagire innanzitutto sotto questo aspetto e poi prendere atto dei nostri limiti in questa lunghissima guerra che dura da tanti anni, che probabilmente abbiamo deciso di non dichiarare in senso evidente proprio per evitare quella sensazione di panico che invece da ieri credo abbia preso tutti, e bisogna accettare l'idea che una guerra non si combatte in maniera disorganica e disunita. Non è possibile che all'interno di questo combattimento con l'ISIS ci siano una serie di altre piccole e vecchie o grandi guerre e conflitti che si tentano di risolvere, qualche volta persino, dico questo ovviamente tra virgolette, con l'aiuto di questo avversario. Bisogna operare un chiarimento politico all'interno dei rapporti tra, tra la NATO, la Russia. E ovviamente anche prendere atto dei nostri errori in quei territori dove interveniamo in modo spesso disorganico per andare a conquistare fonti energetiche, luoghi strategici, dove continuare le nostre battaglie senza sapere che lì ci sono delle persone. Bisogna anche ricordare in queste ore a tutti i cittadini europei che le forze armate di tutti i paesi europei, o di quasi tutti i paesi europei, sono lì, che bombardano città, persone, qualche volta anche bambini, anziani, e dobbiamo capire. Ma secondo se lei, quindi, è giusta o sbagliata? Ecco, sicuramente questo è importante capirlo, l'abbiamo detto prima anche, insomma, analizzando un po' la situazione con l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Dovremo scegliere i nostri alleati per questa guerra che andrà fatta al terrorismo. Lei ricordava giustamente la necessità di non farsi prendere dal panico in momenti come questi, e quindi di non decidere chissà quale tipo, diciamo, di reazione in questi frangenti senza ragionare bene. Questo è evidente che deve essere fatto, però insomma qualcuno dice, sale un po' la richiesta di non sottovalutare il pericolo dell'ISIS, di, qualcuno parla di nuovo nazismo, di non chiudere gli occhi, di non girare la testa dall'altra parte, insomma di cercare di individuare realmente qual è il nemico e combatterlo anche dal punto di vista militare. Lei è d'accordo su questo, dal punto di vista politico naturalmente, non per il ruolo che ha, perché lei è semplicemente il presidente di una regione, quindi non spetta a lei fare queste valutazioni, però dal punto di vista più generale. Innanzitutto l'ISIS è uno Stato, sia pure in una fase rivoluzionaria, embrionale, è uno Stato che ci dichiara guerra e che agisce anche nelle nostre capitali con azioni che dal punto di vista tecnico non sono diverse da azioni che durante la Seconda Guerra Mondiale sono state fatte dietro le linee nemiche dai vari eserciti, quindi non c'è nulla di, tra virgolette, di terroristico. Si utilizza la tecnica della guerriglia nei luoghi urbani controllati dall'avversario. Quindi è evidente che noi quell'avversario lo dobbiamo contrastare dal punto di vista militare, dell'intelligence, anche delle indagini, perché si serve quell'avversario anche di noi, nel senso che essendo noi una civiltà multireligiosa, multirazziale, multietnica, abbiamo anche il fenomeno di coloro che, pur essendo perfettamente integrati nel nostro stile di vita, hanno la convinzione di dover impugnare le armi per reagire contro quella che considerano uno sfruttamento, una sopraffazione che l'Occidente realizza nei confronti dei loro correligionari. E questo ovviamente, per esempio, prevede praticamente che le indagini sul terrorismo siano anche meglio coordinate. Noi abbiamo molte forze di polizia, questo lo so perché ovviamente quando mi sono occupato delle mafie, certo, europee, magistrato, sì. Ovviamente facevamo un po' di fatica a coordinare le indagini perché le leggi sono diverse, le regole sulle intercettazioni sono diverse, le regole sulle estradizioni sono alle volte un po' applicate in modo diverso. Sicuramente questa è una falla dell'Europa, diciamo, la scarso coordinamento a livello dei singoli paesi sull'intelligence. Non voglio andare oltre le mie competenze, sì. L'ha detto bene, però è arrivato il momento di avere degli uffici, almeno delle procure che si occupano a livello europeo specificatamente di questo, di terrorismo. Ma in questo momento lei sarebbe d'accordo sulla chiusura delle frontiere, per esempio, o non è il caso, non serve a niente? Al di là di un po' di marketing elettorale, la chiusura delle frontiere è il risultato più grande che si potrebbe dare all'attentato di Parigi. Se noi limitassimo la nostra capacità commerciale, operativa, di movimento, anche di aggressione culturale nei confronti di questi paesi, perché l'apertura delle frontiere è il nostro massimo vantaggio, è la nostra arma più forte per convincere quelle persone che il loro modello di vita è superato dalla storia. Però è evidente che se noi reagissimo male sarebbe come sarebbe dalla vinta quasi ai terroristi. Fare il gol che hanno tentato di fare. Quando si parla di nuovo nazismo a proposito della strategia terroristica dell'ISIS, lei è d'accordo con questo tipo di definizione o no? Una guerra che secondo il loro sistema di valori non è in contrasto con quei valori, questo bisogna averlo chiaro in testa. I nazisti invece negavano i valori che che costituivano la cultura occidentale e la cultura europea. È una cosa completamente diversa. Il nazismo era una sorta di impazzimento, peraltro di natura assolutamente perversa. Questa è una guerra santa, una jihad. La guerra santa è diciamo una modalità che l'Islam ha utilizzato per secoli e che sta continuando a usare, almeno in alcune delle sue parti, per reagire ad un assoggettamento che ritiene di subire da parte dell'Occidente. E questa è una guerra, non è un impazzimento come il nazismo o come il fascismo o come altri momenti di crisi politica dell'Occidente. È una cosa molto più complessa che, ripeto, dura da tantissimi anni e rispetto alla quale questi eventi adesso ci consentono di identificare il nemico, di identificare anche i nostri errori politici, perché in una guerra c'è anche l'aspetto diplomatico. Se noi abbiamo commesso degli errori nella relazione con queste persone, questo è il momento di ammetterlo, bisogna combatterli, io anche con tutta l'intelligenza e la forza di cui disponiamo, ma anche negoziare con questi soggetti. Senta, un flash in chiusura, poi la lasciamo. Adesso c'è il giubileo, insomma, ci sono delle preoccupazioni naturalmente perché potrebbe essere un possibile obiettivo. Con Expo è filato tutto liscio, 6 mesi, fortunatamente con noi non è successo niente. Bisogna confermare l'agenda o farsi qualche domanda, secondo lei? Il giubileo non può essere rinviato. Il giubileo è un evento di grandissima importanza religiosa per tutti i cattolici e va realizzato, punto e basta. E bisognerà fare in modo che sia realizzato con la prudenza necessaria. Volevo dire un'altra cosa, è anche arrivato il momento di un maggiore coordinamento politico tra i paesi dell'Unione Europea, perché se per contrastare quest'estate il fenomeno dei migranti abbiamo impiegato mesi e mesi per trovare la giusta soluzione, certo. Ecco, se siamo in uno stato di guerra è evidente che questo non può essere con riferimento alle non solo, quindi non solo le sfide economiche, l'immigrazione e il terrorismo sono le sfide principali adesso che riguardano l'Europa, un'Europa che Emiliano auspica, ma non è l'unico, insomma sono in molti a dirlo, un coordinamento, un'unità politica più forte. Grazie Michele Emiliano per essere stato con noi, buona giornata, buon sabato. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi torniamo tra pochissimo e andremo questa volta sì a Parigi. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, diamo il buongiorno anche ad Andrea Paracchini, giornalista italiano che si trova a Parigi. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Alessio. Dove ti trovi in questo momento? Sei riuscito a uscire a fare il giornalista oppure abbiamo visto insomma misure restrittive molto forti, tutti chiusi in casa e tra l'altro è scattata anche una campagna virale Porte Ouverte, no? Esatto, nella notte. Sì. Il mio muro di Facebook era intasato di appunto persone che cercavano notizie sui loro amici e che offrivano ospitalità a chi si trovasse fuori casa. Effettivamente so di amici che hanno dormito fuori e perché appunto sono stati sorpresi dalla notizia mentre erano al cinema o in giro per locali. Era venerdì sera, quindi insomma è anche normale. Io sono uscito effettivamente, è dalle 8 che sto passeggiando per Parigi. Che cosa vedi intorno a te? Esatto, vedendo il viso terreo di Hollande ieri sera che annunciava lo stato di urgenza, ero anche un po' curioso di vedere cos'era la situazione in strada. In realtà non è l'apocalisse come uno poteva temere, ci sono gli autobus circolano, ci sono macchine, ho incontrato persone che fanno jogging, ho visto un signore che usciva da una panetteria con delle torte e non è possibile immaginare, Andrea, che siano persone che non sanno quello che è accaduto. No. Sono persone che pur sapendo quello che è accaduto cercano comunque di riprendere anche una vita normale. Esatto, sì, è una mattinata molto calma. Effettivamente io ho camminato da casa mia, sono andato fino a Bastille, sono arrivato fino allo sbarramento del posto di blocco a fianco al Bataclan e adesso per avere un attimo di calma sono entrato nella vietta dove c'era la redazione di Charlie Hebdo, perché come è stato detto anche dai giornali italiani il Bataclan è veramente a poche centinaia di metri dalla redazione di Charlie Hebdo, dove sì, c'erano stati gli attentati in gennaio di quest'anno. Senti, ma ancora Parigi, no? Ancora colpita la Francia, che è sicuramente un paese in prima linea nella lotta all'ISIS insieme agli Stati Uniti. Nella mentalità, nella mente dei francesi, sulla stampa, nelle reazioni, comincia a delinearsi una sensazione, un qualche cosa, una voglia di reagire. Abbiamo sentito i tifosi che uscivano dallo Stade de France cantando immediatamente dopo quello che era accaduto l'inno francese, una reazione, abbiamo detto, tipicamente francese. Qual è la tua sensazione in questo momento? L'impressione, intanto ieri sera ho ricevuto anche a mezzanotte una mail che convocava le persone a manifestare oggi alle 14 a Piazza della Repubblica. Non so cosa ne sarà, perché teoricamente, essendo stato decretato ieri sera lo stato di urgenza, le manifestazioni sono vietate dalla prefettura, quindi non è possibile riunirsi. Quindi non sarebbe possibile, diciamo, teoricamente, sì, indire una teoricamente manifestazione. No, ho cercato di guardare questa mattina se c'era qualcosa di più come informazioni, non lo so. Nelle persone, nel senso, da gennaio dell'anno scorso a Parigi si imbatte regolarmente in militari armati che presidiano scuole o punti sensibili. C'è, cioè, il plan Vigi Pirata allo stato più alto a Parigi. Al TG capita di sentire appunto i vari vox populi con persone che trovano rassicurante. Io personalmente non mi sento particolarmente rassicurato dal vedere militari con armi d'assalto schierati per la città, ma poi lì sono punti di vista. Sì, anche perché, insomma, diciamolo chiaramente, magari una riflessione andrà fatta anche sulla capacità dell'intelligence francese di prevenire queste situazioni, perché ora dire che l'esercito in strada non serve a nulla forse può sembrare riduttivo adesso, però sicuramente per esperienza non è il giorno dopo un attentato che si rischia qualche cosa in una città come Parigi, non è mai accaduto. I rischi erano ieri. Prego Andrea. Dal punto di vista della società civile, quello che ne parlavo ieri sera, sono stato a chiacchierare col mio redattore capo via SMS. Oggi in Francia inizia la settimana della solidarietà internazionale, un evento che è alla 18ª edizione, e il mio capo oggi pomeriggio avrebbe dovuto animare un dibattito sul il titolo era l'importanza del vivere insieme. Sì. E ieri sera dicevamo ironia della sorte, ovviamente questo dibattito, come tutti gli altri eventi, è stato come sospeso. È stato sospeso. Peccato, perché secondo non c'era probabilmente giorno migliore che per riunire delle persone in un luogo pubblico, in un teatro, a discutere di convivenza, di certo, cittadinanza, insomma. Rientro un attimo in studio, Andrea, grazie, sicuramente penso e spero che ci risentiremo più avanti, dopo il giornale delle 8, delle 9. Laura Bettini, ci sono delle cose da aggiornare? Non ci sono particolari aggiornamenti al momento, come dicevamo c'è soprattutto un riepilogo, ma lo facciamo tra pochissimo, sì, in GR24. Volevo solo fare un'osservazione su quello che abbiamo detto prima per quel che riguarda scegliere bene gli amici. Sì. Beh, guardiamoci bene anche dentro, tra di noi, no? Come si dice, dagli amici mi guardi Dio, perché comunque se c'è un mercato per il petrolio dell'ISIS o un mercato per le opere d'arte che l'ISIS trafuga, questo mercato è sicuramente nella nostra parte di mondo. Questa è una riflessione che può sembrare in questo momento laterale, ma credo anch'io che non sia assolutamente laterale. Grazie Laura Bettini, grazie ad Andrea Paracchini da Parigi, sta passeggiando per la città e continuerà anche nella prossima ora a raccontarci quello che vede, militari schierati agli incroci delle strade, ma anche gente che entra nelle pasticcerie, beve il caffè, fa jogging, cerca di avere anche la capacità di affrontare la giornata, di sorridere dopo aver vissuto una notte tragica da incubo. Ricordiamolo, il bilancio attualmente è di 126 vittime per gli attentati di ieri sera nella capitale francese. Ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, ancora aggiornamenti, cronaca e anche le altre notizie, poi proseguiremo con lo speciale dopo le 9. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Gli Gli speciali di Radio 24. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi per questo speciale di Radio 24, naturalmente dedicato agli attentati di ieri sera a Parigi. Studio con me Laura Bettini, ciao Laura, ben ritrovata. Ben ritrovati a tutti. Se riusciamo ad accendere il microfono. C'è una competizione tra me e la regia. Cominciamo subito a vedere se ci sono degli aggiornamenti, delle notizie, insomma, da Parigi e non solo, delle notizie dell'ultima ora. Laura, c'è qualcosa da segnalare? Dunque, novità, ovviamente purtroppo non c'è, o forse per fortuna, visto il contesto, novità non ce ne sono. Stavo cercando informazioni su i latitanti, perché sì. Sicuramente ci saranno dei latitanti. Ricordiamo, sono 8 i terroristi che sarebbero stati uccisi, esatto. 7 kamikaze ed uno invece ucciso in una qualche azione, diciamo, di polizia. E però chiaramente non possono aver agito da soli, ci sono dei latitanti, probabilmente sono quelli che hanno agito nei locali che sono stati presi di mira, quindi ristoranti, pizzerie, bar, questa terrazza di una pizzeria dal nome italiano, e non sappiamo se è italiana come proprietà comunque, e quindi ci sono delle persone che sicuramente vengono ricercate. Ecco, su questo punto io al momento non ho novità da darvi, ma sono esattamente quelle che sto cercando, perché credo siano quelle di maggiore interesse, anche perché dalla latitanza di questi terroristi dipendono anche gli spostamenti dei parigini, di chi deve raggiungere la città, no? La chiusura delle frontiere, che poi non sono state chiuse, ripristinati i controlli, l'uscita dalla città, tutti i temi appunto che sono anche per tutti noi. Mi aggancio subito su questo, perché c'è anche un'allerta tra l'altro della Farnesina, cioè del Ministero degli Esteri italiano, che dice, rivolgendosi ai connazionali, di attenersi alle indicazioni delle autorità locali per chi deve mettersi in viaggio, ma anche di evitare ogni spostamento. Noi abbiamo in collegamento con noi Benedetto Della Vedova, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi, che è il sottosegretario agli esteri. Intanto, appunto, per sottolineare questa notizia, cioè c'è in questo momento una attenzione anche per quanto riguarda i viaggi, i voli che un qualunque, diciamo, concittadino debba fare per qualunque motivo. Come dobbiamo muoverci da questo punto di vista, sottosegretario? Guardi, innanzitutto il sito della Farnesina, dove siamo nel mondo, ha indicazioni costanti qualora c'è una visione di necessità, e quindi anche in queste ore è bene che chi deve mettersi in movimento vada a consultarlo. Consulti. Il messaggio a cui lei faceva riferimento è un messaggio relativo ai connazionali che si trovano già all'estero, in Francia in particolare, Francia. Quindi di evitare spostamenti non strettamente necessari, e attenersi alle indicazioni dell'autorità parigina. Perfetto, questo per chi si trova in Francia. Invece tutte le altre persone che devono viaggiare per qualunque motivo possono andare. Tra l'altro possiamo anche dire, abbiamo il collega che sta cercando di raggiungere Parigi, voli anche su Parigi sembrerebbero confermati, quindi insomma in ogni caso chi deve muoversi non deve, diciamo, fare niente di particolare rispetto a quello che si fa normalmente. No, ecco, riguardo alla Francia e a Parigi in particolare, ovviamente attenersi alle indicazioni che vengono dalle autorità locali. Senta, sottosegretario, le voglio chiedere adesso un suo giudizio, anche se probabilmente non è di stretta pertinenza. Alle 9.30 ci sarà un vertice del Ministro degli Interni per quanto riguarda Alfano, per quanto riguarda l'Italia e la sicurezza nel nostro Paese. Ma comincia a trapelare nei commenti qualche giudizio sulla capacità o l'incapacità dell'intelligence francese di prevenire. Può sembrare cinico, può sembrare brutale in questo momento, diciamo, voler infierire in qualche modo, però forse una qualche riflessione può essere fatta. Si può fare un ragionamento di questo tipo, oppure l'imprevedibilità di questo tipo di situazione è tale per cui non si può parlare di una defiance dei sistemi di sicurezza francesi? Guardi, per quanto riguarda l'Italia, come lei ha detto, alle 9.30 ci sarà il Comitato Nazionale di Sicurezza, che verrà presieduto dal primo ministro Renzi in questa occasione. Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza francesi, io credo che si debba essere, poi per un decennio bisogna sempre andare in fondo, ci saranno inchieste, si capiranno le dinamiche degli come sempre di ricostruire l'organizzazione, i profili delle persone che vi hanno partecipato, militanti dell'ISIS, la provenienza, se sono cittadini francesi come è stato in altri casi, cioè nati in Francia prevalentemente o no, che spostamenti, che contatti abbiano avuto. Da qui oggi è evidente che l'attentato è deflagrato in una città che sicuramente da gennaio dell'anno scorso, di quest'anno, era in qualche modo con grande attenzione su queste cose dopo sì. L'attacco si è avvenuto. È evidente che gli attentati ci sono stati. Da qui a individuare responsabilità del dispositivo di sicurezza francese, posto che non pertiene a noi, mi sembra obiettivamente che in questa fase non abbia grande senso. Certo, dobbiamo tutti quanti interrogarci sulla potenza imprevedibile di questi attacchi e su come rafforzare la protezione. Assolutamente. Quello che è successo un paio di giorni fa con l'arresto di una rete di presumibili jihadisti che preparavano attentati conferma che l'attenzione massima. Sì, certo, arresti che sono scattati in tutta Europa con un'operazione partita dall'Italia che ha portato ad arresti anche in Italia, a Merano in particolare. Senta, certo. Ma dal punto di vista dello scenario internazionale, ieri il presidente americano Obama ha detto li prenderemo uno a uno. Qual è la priorità, insomma, per un intervento, per un aumento dell'intensità anche sul piano militare e di una reazione che è prevedibile ci potrà essere nelle prossime ore secondo punto di vista suo o di quello che è il punto di vista dell'Italia all'interno di questa coalizione, sottosegretario? Io non credo che per nessuno, sicuramente non per l'Italia, l'atteggiamento e l'impegno sullo scenario siriano cambino, anzi, casomai questa è una ragione per aumentare l'impegno affinché la situazione in Siria abbia una prospettiva che non sarà immediata, ma abbia una prospettiva di natura politica, non perché nessuno di noi pensa che non serva il dispositivo militare sul terreno. È chiaro che però l'uscita in quella regione dalla crisi che riverbera attraverso attentati, collegamenti, formazione, addestramento dei terroristi nelle città europee e in Europa deriva dalla possibilità di lavorare per una soluzione che possa tentare di essere una soluzione di stabilità e di pacificazione della regione. Da questo punto di vista, stabilità e pacificazione, le armi non sono sufficienti, necessario il dispositivo militare a cui noi partecipiamo indirettamente, ma è soprattutto necessario lavorare per una soluzione anche rispetto all'intervento russo. Il problema è quello di canalizzare tutte le energie perché si arrivi a un'ipotesi di soluzione per il dopo bombardamenti. Questo è il lavoro che anche in queste ore la diplomazia italiana e il ministro Gentiloni sono impegnati a fare. Benissimo, noi la ringraziamo, il sottosegretario Benedetto Della Vedova, grazie a voi per essere stato con noi, buona giornata, buon sabato, ricordando che alle 9.30 invece ci sarà il punto del Ministro dell'Interno sulla sicurezza in Italia. Noi facciamo una piccola pausa invece per il traffico e torniamo tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati. Buongiorno ad Alessio Maurizi, in studio con me c'è anche Laura Bettini, che buongiorno, sta monitorando costantemente insomma, le notizie, le agenzie, ma anche i siti francesi, per vedere se ci sono delle cose da aggiungere, da dire. Vi ricordo 349-238-6666, anche il numero che trovate anche su WhatsApp per dialogare con noi, una novità di Radio 24 di questa settimana, quindi potete cominciare a usarla. 800-24-00-24, è giusto far intervenire anche gli ascoltatori, come sempre a questa ora, in queste ore normalmente Radio 24, tutte le mattine in realtà, ma in quasi tutti i programmi della radio c'è un filo diretto con gli ascoltatori. Salvatore da Roma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Salve. Prego. Sì, cosa voleva? Scioccato come tutti, penso. Sì. Ieri sera ho fatto una tardi a vedere quello che succedeva. Niente, io la domanda che mi faccio, io, ecco, forse perché chiamando da Roma mi sento anche tirato in causa dalle rivendicazioni dell'ISIS. Io mi chiedo se devo essere passivo, aspettare che qualcuno mi venga a sgozzare nella mia città, sì, senza che nessuno fa niente, nella speranza e pregando che non succeda. Certo, speriamo, ci assommiamo a questa sua preghiera, ecco, assolutamente. Lei sta dicendo insomma, che bisogna intervenire, che bisogna fare qualcosa, che non bisogna più aspettare. Sul fronte perché, di quelli che vorrebbero intervenire. Sì, anche perché il lupo si fa il lupo con la pecora. Va bene, Salvatore, fra l'altro ci sarà il giubileo nella sua città. Abbiamo sentito prima il presidente della Puglia, Emiliano, che cioè, abbiamo sentito come uomo politico, tra l'altro l'avevamo convocato per altri motivi questa mattina, ma insomma non per motivi particolari. Ha detto no, dobbiamo confermare il giubileo, assolutamente si farà, dovremo essere in grado di farlo in sicurezza. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire sul fatto che ogni volta che succedono questi gravi, queste cose gravissime, non c'è, ho sentito sempre parlare di islamici moderati da noi, però no, in queste situazioni non vedo mai nessuno di queste persone, magari che telefonino anche loro a dire che gli dispiace, che sono rammaricati di questo, anche loro, e sento capi di Stato, tutti, va bene che si rammarichi, sì, ormai, però non va bene, no, è giusto Antonio questa sua, anzi mi aggiungo anch'io, diciamo che chiediamo a chi ci sta ascoltando, di religione musulmana, all'ascolto, se vuole chiamarci per dirci anche come si è sentito, vivendo il fatto che ancora una volta questi terroristi sono entrati in azione al grido Allah è grande, e quindi è una cosa che sicuramente li interroga. Tra l'altro noi proveremo a sentire più avanti il rappresentante, uno degli esponenti della comunità islamica italiana. Oggi Libero titola con un titolo forte che giustamente mi ricordano bastardi islamici, ma insomma i titoli dei giornali, di alcuni giornali in questo senso, sono orrore islamico, assalto a Parigi, questo è il giornale, e va bene insomma. Comunque Antonio, grazie per averci chiamato, buona giornata. Laura, ci sono novità relative, e ci sono il Consiglio della Difesa francese che si è riunito questa mattina alle 9, ovviamente proseguono, sì, i lavori, le consultazioni, manca soltanto il ministro degli esteri Fabius, che è stato destinato a sostituire Hollande al G20 di Antalya in Turchia, dove ovviamente la questione balzerà sull'agenda rispetto a tante altre, ma la freschezza e la crudezza di quello che è accaduto a Parigi sicuramente sarà discusso anche in Turchia. Allora, su WhatsApp ci ringraziano per le informazioni che stiamo facendo, poi c'è chi scrive: la Francia ha immediatamente chiuso le frontiere, mi viene da chiedere quanto Schengen durerà ancora. Tonio dalla provincia di Cremona: la Francia non ha chiuso le frontiere, diciamolo. La Francia ha ripristinato i controlli alla frontiera, sì. Direi che in questa situazione il minimo che si possa fare, appunto, come dicevamo, ci sono dei latitanti, ci sono sicuramente dei collegamenti di queste persone da individuare, quindi un controllo è d'obbligo. Come dicevamo, gli aeroporti danno traccia, se guardate sui siti internet, ma tra poco sentiremo anche il nostro inviato Donelli, del fatto che i voli sono regolari, vanno avanti e indietro da Parigi, come i treni vanno avanti e indietro da Parigi per la Francia, quindi ci sono controlli, ma non chiusura delle frontiere, uno stato di emergenza dichiarato ovviamente. Allora, qualche altro messaggio, ne avevo individuato uno che adesso non... dice fate parlare ancora, sempre su WhatsApp, fate parlare Emiliano ancora, ripeto, Emiliano l'avevamo convocato per parlare di altri argomenti, lo abbiamo tenuto con noi perché comunque è un politico importante italiano, abbiamo voluto sentire anche la sua reazione a caldo e a, cioè, cominciare anche ad affrontare qualche ragionamento su quello che accadrà in futuro, così come con Della Vedova, che sempre su WhatsApp ci dicono sembra Razzi di Crozza, non so per quale motivo, diciamo, suscitava questo paragone. Adesso voglio salutare il professor Andrea Segre, buongiorno. Buongiorno. Andrea, allora, insomma, anche tu stamattina eri stato convocato da Radio 24 per parlare di scienza, per parlare del futuro, perché la tua fondazione, la fondazione che presiedi, è uno degli enti che entreranno nel polo scientifico Human Technopole, come è stato voluto chiamare dal governo con un inglesismo, che sorgerà sull'area di Expo in futuro. Tra l'altro ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un finanziamento e a questo punto non parliamo più di questo, naturalmente, Andrea, però no. Al professor Segre, uomo di scienza, io devo chiedere una cosa, perché è ovvio che questi attentati di Parigi arrivano per colpire che cosa? Il nostro modello, la nostra civiltà, il nostro progresso, credo anche. Tu come ti senti da uomo di scienza, coinvolto, tirato dentro, come reagisci oggi, il giorno dopo, a questa barbarie che è accaduta ieri a Parigi? Ma certo, intanto è uno shock terribile e anche un sentimento, diciamo, di solidarietà ai tanti colleghi dell'università, dei centri di ricerca francesi di Parigi, dove c'è una straordinaria concentrazione di cervelli. Ma io credo che, diciamo, questo fondamentalismo, questo integralismo è l'antitesi della scienza, che invece penso sia una conquista irreversibile per l'umanità e che ha alla base il dialogo fra gli individui, l'incontro fra le menti, la contaminazione, l'interdisciplinarità. E quante volte nei convegni vediamo colleghi che vengono da parti del mondo, certo, completamente diverse, e tra l'altro anche, diciamo, della scienza, forse, certo, nell'Islam il pensiero scientifico, è vero, fa forse più fatica a diffondersi, ma va avanti, e qui siamo a degli estremi opposti che credo vengono poi criticati, rigettati anche dal mondo scientifico islamico. Quindi veramente qui è una barbarie che va combattuta per quel che è possibile, anche con la scienza per la pace. E questo, secondo me, che dobbiamo continuare a fare ricerca. Adesso parleremo certamente in un altro momento dello Human Technopole, certo. Ma anche quello, e anche tra l'altro anche tra l'altro di quanto voglio aggiungere questo, di quanto il progresso scientifico e tecnologico nel campo del cibo, dell'alimentazione, del benessere delle persone possa essere un elemento di pacificazione nel mondo, e soprattutto anche nelle zone di guerra che attualmente sono le zone dove c'è più guerra. Credo che anche questo potrebbe essere un elemento su cui riflettere per il futuro. Ma certo, abbiamo parlato tanto in Expo, nutrire il pianeta, ci sono parti del nostro pianeta che non hanno cibo a sufficienza, e proprio per questo le popolazioni si rivoltano. Quindi anche l'azione che noi abbiamo promosso durante i 6 mesi, parlo della Fondazione Mach assieme a tanti altri, questa ricerca elevatissima, ecco, ci aiuta, e anche in questo modo attiriamo dei cervelli dall'estero e anche da quei paesi, sono i nostri che escono, e questa contaminazione che poi ci fa crescere tutti, certo. Atti terrificanti come questo ci danno forse, ecco, bisogna reagire in modo ancora più forte e andare avanti nel percorso che abbiamo già scelto. Grazie Andrea Segre, grazie professore. Grazie a voi. Buon sabato. Ci siamo allontanati un momento dalla strettissima cronaca per pochi minuti, ma insomma ci sembrava giusto rialzare anche un po' la testa e insomma riflettere anche su quello che siamo e su qual è la direzione nel nostro futuro, del nostro anche progresso sociale, che comunque non si interromperà con quello che è accaduto ieri a Parigi, come non si interrompe mai dopo un attentato. Laura, forse volevo aggiungere su questo tema, visto, per stare in tema con l'intervento del professor Segre, che a Parigi si parlerà a fine mese di cambiamenti climatici, certo. La COP21, e cambiamenti climatici sono uno dei grandi motivi delle grandi migrazioni, quindi anche questo innesca un processo di insoddisfazione, di povertà, che dobbiamo contrastare anche per evitare che certi fenomeni si trasformino poi in situazioni allarmanti e drammatiche come quelle che vediamo adesso. C'è tutto un fondo comune in tutte queste vicende, oltre all'estremismo religioso. Grazie Laura e grazie agli ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp, ripeto, novità dell'ultima settimana di Radio 24, al numero sempre 349-238-6666, ci stanno sommergendo di messaggi, non so se riusciremo a leggere anche solo una piccola parte. No, è impressionante la quantità, io ho visto, c'è di tutto veramente, sì. Alessio, però è bello questa partecipazione. Assolutamente, molto bello. Tra l'altro invece non è una buona notizia, perché tra poco dovremmo avere probabilmente un'intervista al console italiano a Parigi, che potrebbe confermare l'esistenza di una vittima italiana, un ferito, probabilmente un ferito all'interno, tra i numerosi, che sono oltre 200 i feriti che ci sono stati nell'attentato di ieri, 126 le vittime al momento, queste sono le cifre ufficiali. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! Gli speciali di Radio 24. Allora, vi leggo alcuni WhatsApp che ci sono arrivati, numerosissimi, lo ripeto ancora una volta. La guerra santa si contrasta diffondendo la libertà. Poi c'è invece chi ha un parere opposto. Ma che cibo è cibo per riappacificare il mondo? Cosa dite? La chiusura delle frontiere, il blocco navale, via gli italiani dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan, dice qualcun altro. Poi invece ci fa i complimenti per l'informazione che stiamo facendo. Viva la Francia, viva i francesi, viva l'Europa. Oppure un altro che scrive la Gazzetta, ma si riferisce al Libero, che scrive: Islam bastardo, dovrebbe andarci piano, sappiamo benissimo, scusate non lo trovo più, sappiamo benissimo, niente, non riesco a finire di leggere WhatsApp. Comunque invita Libero ad andarci piano col titolo molto molto forte che è stato scelto, eccetera eccetera eccetera. Buongiorno, complimenti, qual è la reazione del mondo islamico di fronte a questo orribile attentato? E noi tra poco cercheremo anche di fare un passo in questa direzione. Adesso però è il momento di sentire un'intervista che avevo annunciato, di Valentina Furlanetto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Chi ancora una volta Alessio e agli ascoltatori. Abbiamo sentito poco fa, ho sentito il funzionario del Consolato Generale d'Italia a Parigi, Sergio Fioco, che ci dà un'importante informazione. Sentiamo. Senta, se hanno notizie di italiani feriti o uccisi? Guardi, solamente di una, un'italiana che si trovava nella sala di concerto, al Bataclan, insieme ad altri amici, e quando poi è successo, poi loro sono il gruppo che era con lei è scappato, la sua amica ha preso la borsa col cellulare, l'ha vista ferita, però poi non si danno più notizie di questa ragazza. Dico, quindi questa ragazza è senza documenti, quindi si spera che sia stata ferita, cioè noi abbiamo, ancora non c'è una lista di chi è morto oppure di chi è solamente ferito. La famiglia più è stata avvisata? Più altre che ci fa l'unità di crisi dall'Italia, di gente che non si riesce a rintracciare, però molto probabilmente questi sono altri che comunque sono a Parigi, che non rispondono per altri motivi al telefono, insomma non è detto che siano tutti coinvolti nel problema dell'attentato praticamente. E ci hanno chiamato quasi tutti gli italiani. Immagino. Che vogliono rientrare in Italia oggi stesso, chiaramente presi dalla paura. E non, le autorità francesi ci hanno detto che gli aeroporti funzionano normalmente, però bisognerebbe essere in tempo utile, quindi un tempo maggiore per i controlli del passaporto. Poi tra l'altro sì, già la Francia aveva chiuso le frontiere a prescindere dall'attentato che c'è stato, per la conferenza del COP21 che sarà le prime di dicembre. Aveva deciso di sospendere Schengen dal 13 novembre al 13 dicembre. Quindi da ieri. Quindi ci sarebbero state comunque dei controlli possibilmente a campione prima, però adesso sicuramente non più, e di dei passaporti e delle carte d'identità di chi entra e chi esce dall'Italia. Però i mezzi di comunicazione funzionano normalmente, solamente le compagnie aeree americane hanno sospeso i voli. Allora, avete sentito, una ragazza italiana coinvolta, sicuramente ferita, speriamo soltanto ferita, e il secondo dato che ci viene fornito dal Consolato Generale d'Italia è la sospensione di Schengen da ieri, quindi gli attentatori o erano francesi o erano già entrati probabilmente in Francia. Per ora è tutto. Grazie Valentina. E ancora su WhatsApp c'è chi dice: dobbiamo rassegnarci, cediamo privacy in cambio di sicurezza. E questo sicuramente è un punto di vista molto diffuso, e in questi momenti naturalmente si affaccia questa ipotesi. Poi c'è chi se la prende con lo sciacallaggio che ancora una volta viene fatto da Salvini e dai politici italiani. Laura Bettini, che qual è la dichiarazione esattamente? Uno dei pochi politici tra i primi ad intervenire dopo quello che è accaduto a Parigi, parlo di politici italiani. Salvini che ha detto è l'ora di intervenire. La ritroviamo esattamente, comunque il concetto era chiaramente quello: è l'ora di intervenire, bisogna smettere di avere paura, ma darsi da fare e intervenire. Tra l'altro stanno arrivando varie, adesso mentre aspetto che le agenzie si aggiornino e mi riportino finalmente la dichiarazione precisa di Salvini di oggi e non quella di ieri come sto trovando in questo momento, vi dico che sono arrivate ovviamente le reazioni mondiali. Abbiamo sentito già nel corso di GR24 quella di Obama, Olanda naturalmente. Obama aveva detto: non lo chiamo neanche subito perché adesso ha da fare, gli parlerò dopo. Nel frattempo abbiamo saputo, ne parlavamo all'inizio di questo speciale con Alberto Negri, che la visita di Rouhani, l'iraniano, è stata sospesa, doveva essere a Roma e a Parigi, prima Parigi e poi a Roma, in ogni caso non andrà da nessuna parte. È arrivata quella ovviamente russa del premier Medvedev, e ovviamente si tratta di condoglianze. Ecco, finalmente è arrivato Salvini alla buon'ora. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo cambiare il nostro di vivere, modo di vivere. L'Europa continuerà a perdere se farà finta di niente. E non mi fanno paura i terroristi, ha proseguito, ma i governi occidentali che dormono. Una volta pregato per i poveri morti di Parigi, penso bisogna passare all'azione. Poi dopo ricordo, in un'altra agenzia si faceva riferimento esattamente ed esplicitamente a un intervento in Siria e in Libano in questo momento. Allora, noi salutiamo, diamo il buongiorno e il benvenuto ad Aretha Mehr, che è presidente nazionale dei Giovani Musulmani d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Buongiorno Aretha. Quello che le voglio chiedere è questo: che cosa ha provato lei da presidente dei Giovani Musulmani d'Italia e da quindi una persona che anche a livello di associazione è portatore dei valori dell'Islam, a ancora una volta ad assistere a che cosa? Al dispiegarsi di un attentato come quello di Parigi, portato avanti in almeno un paio di casi al grido di Allah è grande. Ancora una volta viene tirato in ballo il suo Dio, il vostro Dio, in un'azione terroristica. Cosa pensa lei? Cosa ha provato di fronte a questo? Aretha? Sicuramente grande tristezza ieri sera nel guardare i telegiornali e sentire questa notizia oscena. Ci uniamo al cordoglio della comunità parigina per quel che è accaduto. Le nostre condoglianze vanno a tutte le famiglie degli innocenti che sono caduti in questo attentato alquanto vile, come possiamo definirlo. Chiunque abbia fatto... Data via la linea, forse con Aretha Mehr, vediamo se c'è ancora. No, è caduta. Proviamo a ristabilire il collegamento con lui, perché era interessante naturalmente quello che ci stava rispondendo. La prossima domanda che gli avrei fatto è: quanti proseliti esattamente crede che l'ISIS possa avere, anche magari in maniera sotterranea, nei luoghi dove è presente, in Siria, in Iraq, ma anche altrove? Aretha, l'abbiamo recuperato? Sì, eccolo qua. Sono in treno e non prende tanto. Benissimo. Stava intanto finendo la prima risposta, cioè sulla reazione anche emotiva di fronte ad un terrorista che uccide al nome di Allah. No, chiunque faccia del terrorismo la propria lingua è una persona da condannare, senza se e senza ma, al di là della propria religione, al di là della sua appartenenza culturale. Ma quanto è un grido di Dio è grande, l'abbiamo sentito anche in altre circostanze. Si è rivelato che erano in realtà coloro che venivano a sparare, che magari qualcuno era musulmano e urlava così. Speriamo che il prima possibile si celi il volto dei mandanti di questi attentati alquanto spregevoli. È l'ISIS, secondo lei? C'è stata una rivendicazione? È plausibile che sia lo Stato Islamico? Può darsi ci sia l'ISIS. È logico che in tanti hanno pensato a tanti scenari possibili, si è pensato all'ISIS come a delle gang oppure a qualcos'altro, però diciamo che per la mole con la quale si sono mossi questi attentati, sicuramente si pensa ad un'organizzazione. Arete, le chiedo un attimo di pausa, perché in questo preciso istante sta intervenendo il Presidente del Consiglio italiano Renzi. Sentiamo se sta dando qualche notizia. Si deve stare insieme, uniti. Nel pomeriggio incontrerò i capigruppo di tutte le forze politiche, anche di quelle di opposizione. Ma proprio perché noi non sottovalutiamo niente, sappiamo perfettamente che vinceremo questa battaglia. Non sarà semplice, credo che non sarà breve, ci vorranno mesi, forse anni. Occorrerà tutta la nostra forza, tutta la nostra determinazione, le risorse necessarie a vincere una sfida epocale. Ma l'Italia c'è al fianco della Francia, di un paese coraggioso e nobile che oggi è colpito al cuore, ma che deve sentire, e lo sta sentendo, l'affetto, l'amicizia, la solidarietà di tutta l'Europa e di tutta la comunità internazionale. L'Italia c'è al fianco di tutti gli uomini di buona volontà. L'Italia c'è convinta che questa sfida possa essere vinta tutti insieme. Va bene, questo era Renzi. Facciamo una piccola pausa per le informazioni sulle strade, poi torniamo con Aret Amar, Presidente Nazionale dei Giovani Musulmani d'Italia. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta gli speciali di Radio 24. Personalmente viene la pelle d'oca a sentire questo momento. Questo è il preciso momento, Laura, no, in cui i tifosi francesi stavano uscendo dallo Stade de France. Cosa sapevano in quel momento? Sapevano tutto e niente, nel senso, sapevano che c'erano state delle esplosioni, avevano sicuramente capito che il presidente francese Hollande era stato evacuato dallo stadio, che la cosa era molto grave, e quindi la cosa era molto grave, e che c'erano delle vittime, che non potevano andare via quando volevano andare via, perché sono stati per quanto un attimo. Quanto tempo sono stati poi all'interno? Non so precisarti esattamente per quanto tempo sono stati bloccati, finché non si è capito che potevano liberamente uscire e quindi non ci sarebbero stati pericoli al di fuori, perché quella era la situazione, non si sapeva come si sarebbe però, evoluta. Ripeto, pensate la forza di, in questo caso sì, di un inno nazionale, forse ma anche di una mentalità. Stadio, l'essere tifoso lo stadio in quel sicuramente momento aiuta, perché sei lì già con una mentalità, no, era Francia-Germania, sì, tra l'altro, tra non l'altro, era, sì, era un amichevole, ma era uno scontro che aveva un significato. Allora, siamo in collegamento con il presidente, il giovane presidente della messo giù, non l'abbiamo più in collegamento, il presidente nazionale dei giovani musulmani d'Italia. Come mai? Aret Amar, mi dispiace, l'avevo annunciato e speravo che fosse ancora in collegamento con noi, era caduta la linea perché è in treno. No, è vero, è in treno, ce l'aveva detto. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarlo in questo momento. Sì, tra un buco di linea e l'altro. La cosa strana, la guarda, domanda, mentre aspettiamo, sì, ti dico, Alessio, stanno venendo fuori tantissimi video che i nostri ascoltatori potranno poi andare a rivedere, perché le zone che sono state colpite da questi attacchi erano evidentemente in qualche modo presidiate da giornalisti. C'era un giornalista della BBC nel ristorante cambogiano, un giornalista di Le Monde che ha messo online adesso le immagini del Bataclan che abita, sì, lì di fronte. Sono uscite tantissime cose. Sono, sì, cose, sì, Twitter, incredibili. Poi in ovviamente reale. Parigi è una capitale, quindi è presidiata ancora anche da giornalisti. persone addette. Aretta, quello che, la domanda che tra un problema di linea e l'altro volevo farti è questa: quanti proseliti realmente, secondo te, secondo quello che riuscite a capire voi da qua, può fare l'ISIS, l'esercito dello Stato Islamico, nei terreni dove è presente e dove anche sta provando a mettere su un parastato in Siria, in Iraq, ma anche altrove? Cioè, quante sono le persone di religione islamica o diciamo accecati da questo fanatismo, che però in qualche modo se la prendono con l'Occidente, con i valori dell'Occidente, con i valori dello sviluppo, del progresso, e anche di un'altra religione forse? Diciamo che è difficile fare una valutazione di questo tipo. Le guerre sono state tante e le persone che hanno sofferto in queste altrettante, tantissime, e possiamo capire che dietro un dolore o una strage potrebbe scaturirsi un accecamento, come lei dice, oppure una malcomprensione. Non è possibile comprendere una struttura di questo ISIS, oppure di come funzionano, quante persone ci lavorano, sì, quante persone sono disponibili a compiere. Ma invece secondo lei in Italia c'è qualcuno che fa parte della comunità musulmana in Italia che, senza magari dirlo ad alta voce, però pensa che in qualche modo esiste questa guerra di civiltà, e non dico che si schiera con i terroristi, perché questo apertamente non lo fa mai nessuno, però insomma forse in qualche modo sotterraneamente invece sostiene alcune di queste tesi? Beh, ciò che è sicuro ora è che stiamo vivendo un momento abbastanza delicato, bisogna affrontarlo con grande saggezza. Della comunità attualmente nessuno si è espresso con nulla che al di là delle condanne verso questi atti, verso questi crimini, che altre parole non possiamo trovare se non che proprio sono crimini contro l'umanità. Cosa... contro l'uomo. Certo. Sì. Cosa dovrebbe fare la Francia in questo momento, o anche altri paesi che si sentono toccati, ma soprattutto la Francia, per reagire? Ci vorrà un intervento militare contro questo terrorismo? È possibile, secondo lei, individuarlo, il nemico del terrorismo, e dove? L'intervento militare bisogna sempre comprenderlo, innanzitutto contro chi si fa questo intervento militare, contro il gruppo ISIS stesso, oppure contro tutta una popolazione innocente che poi dovrà pagare le conseguenze, come abbiamo visto in Iraq anni addietro, oppure da altre parti. Ciò che deve fare la Francia, deve fare l'Italia e qualsiasi altro paese in questo momento è fare grande attenzione alla propria sicurezza, investire nel dialogo con tutte le parti, e dico tutte le parti perché il dialogo è sicuramente una delle vie percorribili in questo. Sta di nuovo cadendo la linea. Grazie comunque ad Aretha Mehr, Presidente Nazionale Giovani Musulmani d'Italia. Invece siamo di nuovo in collegamento rapidamente, perché siamo quasi in chiusura, con Andrea Paracchini da Parigi, un collega, un giornalista che vive nella capitale. Andrea, ti abbiamo lasciato che insomma era alle prese con il risveglio dei parigini, brasserie, croissant, gente che fa jogging, ma anche molti militari agli incroci dell'estate. Dove ti trovi? Adesso sono rientrato, ritornando appunto verso Bastille, mi sono accorto che effettivamente di solito sabato mattina c'è un grande mercato rionale a Bastille, che questa mattina è stato sospeso, annullato. C'è tutto il teatro, l'opera Bastille è transennata. Leggevo adesso che le gallerie Lafayette, conoscete, le sono un po' come la Rinascente, certo, grandi centri commerciali. Commerciali ha deciso di aprire oggi, sì, dopo una discussione interna che apriranno. Ed è questo che ci aspettiamo. Io lo dico così, mi lancio il cuore oltre l'ostacolo a questo punto. È quello che il mondo, secondo me, si aspetta dalla Francia, da Parigi in questo momento. Non so se sei d'accordo, Andrea. Certo, assolutamente, assolutamente. Nel frattempo poi il bilancio dei morti è aumentato, sono 128 in questo momento le vittime dichiarate, e alle 9 c'è una riunione di crisi del Museo per decidere la strategia. Sono uscite questo sul fronte invece appunto più angosciante, cioè, vabbè, il dispiegamento di forze con brigate della gendarmeria, dell'esercito, delle altre, delle agenti della polizia che sono state dispiegate a Parigi in questo momento. Dicevo prima, avevo notato che appunto i bus circolavano, confermo effettivamente, poi ho guardato sul sito della RTP, c'è qualche problema ovviamente attorno alla zona in particolare del Bataclan e di République, dove effettivamente alcune stazioni sono chiuse perché la zona c'è un perimetro di sicurezza, ma se no nel resto di Parigi i mezzi pubblici funzionano. Quindi insomma, intanto ti ringrazio e ti saluto ancora una volta, grazie Andrea Paracchini da Parigi, che insomma ci ha descritto questo quadro, un quadro nel quale la città si sta risvegliando, come è normale che sia, alternando momenti di paralisi, di chiusura, mercati sospesi, cioè problemi anche forse nei mezzi pubblici, però gli autobus che funzionano, tenta di reagire, le gallerie della Fayette che invece hanno dichiarato di aprire, però i matrimoni invece non si celebreranno, questo ha fatto sapere il comune di Parigi, forse per una questione di lutto nazionale, non so esattamente, sì, no, anche lo stato civile, cioè tutti questi uffici vengono chiusi, probabilmente ci sono degli accertamenti da fare. Magari l'ultima cosa, una notazione che viene dal Bataclan, dove c'era quel concerto che dicevamo, gli Eagles of Death Metal, questo gruppo californiano, parla su Facebook e dice: ovviamente i pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa terribile situazione, ma si aggiunge anche da parte della stampa francese che non è certo che tutti i membri del gruppo siano fuori pericolo. Quindi c'è massimo riservo su molti aspetti ancora di quello che è accaduto. Grazie a Laura Bettini, come ringrazio anche Claudia Schiattone, Riccardo Poli in diretta e in redazione, Paolo Corleone in regia. La mattinata di Radio 24 va avanti con il giornale radio, poi con Oscar Giannino. Grazie a tutti, buona giornata da Alessio Maurizi. Ciao.